Ed eccoci qui, Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il contatto telefonico. Radio Africa, trasmissione dedicata alle sonorità del continente africano che vi tiene compagnia tutti i sabati dalle 16.30 alle 18. Who can try to be my enemy? My Africa, want to be free. Oh, Africa, Africa, Africa, want to be free. 06 49 17 50, il contatto telefonico. Africa, Africa, want to be free. E per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, il conto corrente postale per sostenere Radio Onda Rossa è il 6180 40 01, intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, via Le Voci 56, Roma. Iniziamo con le nostre selezioni, il nostro settimanale viaggio attraverso la musica africana, e cominciamo dal Kenya, dove c'è una scena musicale Kikuyu, perché Kikuyu è una delle etnie, delle popolazioni, delle genti che popolano il Kenya. Questa scena musicale era molto vivace e soprattutto impostata sul ritmo delle chitarre. C'era un personaggio che si chiamava Daniel Kamau Muawi, che era uno dei maggiori esponenti di questa scena musicale, che aveva fondato la Lulu Band. Lui è operato dagli anni 70 fino alla fine degli anni 80, ma il suo brano più famoso è Nana, un brano che all'epoca, nel 1970, vendette più di 10.000 copie. Ebbene, Nana fu censurata dalla radio di Stato, la VOC, perché i suoi testi erano licenziosi per l'epoca, e allora la Lulu Band, il brano è Nana. Thank you. allora, quello che vi siete ascoltati non era esattamente il brano che avevo introdotto. Si può dire che abbiamo cominciato col piede sbagliato? Chi lo sa? Anche se poi effettivamente anche questo brano che ci siamo ascoltati adesso, Warewa, di un gruppo che si chiama The Loi Toki Tok, viene sempre dal Kenya, ma naturalmente è un altro ambiente musicale, un'altra scena musicale, un brano del 1972 che si rifaceva più alle sonorità dell'Afrobeat, quelle che provenivano dal Ghana e dalla Nigeria. Era un brano che, di un gruppo che poi aveva anche in qualche maniera degli addentellati con i ritmi della benga e della rumba, ma non era quello di cui vi avevo parlato all'inizio. E allora ripariamo a questo gravissimo errore e quindi ci ascoltiamo questa volta il brano che vi avevo annunciato, che era Nana della Lulu Band. Questa era la The Lulu's Band, il brano Nana, brano che appunto fu poi vietato dalla radio televisione, dalla radio keniana, dalla VOC, a causa dei suoi appunto espliciti riferimenti. Dal Kenya ce ne andiamo in Sudafrica, erano a Soweto, erano intorno agli anni 70 anche qui, e a Soweto insomma c'erano anche dei momenti in cui i bianchi e i neri si incontravano dal punto di vista musicale, riuscivano a produrre delle cose molto interessanti, e c'è stato una bella operazione di produzione da parte della Strutt, che ha ripreso tutte queste sonorità che c'erano fra il 68 e il 76 a Soweto in un album, in due album che si chiamano Next Stop Soweto. Ebbene, lui si chiama Philippe Manela e il brano è Tibacano. Philippe Manela con il suo Tibacamo all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50. Il contatto telefonico dal Sudafrica, ce ne andiamo nel Ghana dove incontriamo il Marijata, che è stato un gruppo di tre membri: Edison Electric Coffee alla chitarra, Bob Fishan all'organo e Nat Osmanu alla chitarra, e loro hanno formato il cuore di una band che si chiamavano di Sweet Beans, con un giovane cantante chitarrista, il celeberrimo Pat Thomas, uno degli esponenti più interessanti della scena high life di quegli anni. E allora in Marijata ce li ascoltiamo in questo brano Back Through. Esprimiamo su questi fiati dei Mari Jata in questo Black Through e rimaniamo ancora nel Ghana. L'album Kusum Beat è stato uno degli album, come dicono quelli che hanno studiato, seminale per quanto riguarda la storia dell'high life, della musica ghaniana. Ed è stato l'album, il secondo album degli Sweet Talks, una delle più importanti band ghaniane di quel periodo, che avevano cominciato a suonare nel leggendario Talk of the Town, che era una sorta di hotel piuttosto malfamato dove loro si esibivano tutte le settimane. E bene, loro con questo Kusum Beat hanno dato un qualcosa in più al genere high life, perché hanno sì portato le loro tradizioni musicali, ma le hanno anche missate egregiamente con il funk e l'afrobeat. Dopo The Kusum Beat, diciamo che il percorso dell'High Life non è stato più lo stesso. Il brano che ci ascoltiamo è Hey Sun Ganga e loro sono gli Sweet Talks. We'll be right back. eccoli i potentissimi Sweet Talks dal loro album The Custom Beat. Siamo nel 1974 e voi siete all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il contatto telefonico che è 06 49 17 50. E allora ce ne andiamo in Nigeria, visto che prima eravamo in Ghana, e allora incontriamo un gruppo che si chiama le Anansas, di Anansas Professional, che è un gruppo guidato dal musicista Basti Kingsley Basey, ed era un gruppo che suonava soprattutto in lingua Efik, poiché proveniva da una zona, quella del Calabar, che era al confine con il Camerun nel Cross River State nigeriano. E lui, questo gruppo, le Anansas Professional, poi nel 1976 produsse un album del gruppo per la band label, che ebbe molto molto successo, ma qui noi ce lo ascoltiamo in un 7 pollici che risale al 1973, si chiama N1 e loro sono the Anansas Professional. Diamantas Production. Bene, questi erano gli effetti che aveva avuto sulla scena musicale degli anni 70 il ritorno di Fela dal suo viaggio a Los Angeles nel 1969 con i Kula Lobitos, quindi l'elaborazione del nuovo stile dell'Afrobeat che appunto ha travolto, ha permeato tutta la scena musicale di quegli anni, e appunto questa esplosione di questo nuovo sound fanno parte appunto lì di Anansas Production. Sono le 17.01 e voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 e la modulazione di frequenza. Questa è Radio Africa. Lui invece si chiama Mamo Lagbema e viene dal Burkina Faso. Il brano è Zambo Zambo. Zambo fu registrato in soli 5 giorni in un night club all'Hotel Tropicana e fu registrato in maniera molto improvvisata, anche se poi il suono insomma è molto chiaro e pulito. E Mamo Lagbe suonò insieme a Lesa du Benin, che erano la band residente al Tropicana, un brano che racconta del Tradimento, un brano che nasce dall'esperienza personale di Mamo Lagbema, che era stato appunto tradito da qualcuno che aveva approfittato della sua amicizia. E allora dalla musica burkinabè, da quel genere che possiamo chiamare il Bambara Mystic Soul, ce ne andiamo nuovamente in Kenya, ma questa volta dalle parti di Mombasa, dove incontriamo dei Mombasa Viking che erano stati influenzati dal sound dell'Afrobeat. E allora il brano che ci ascoltiamo è Mama Matotoya e loro sono dei Mombasa Vikings. Yeah. ma sincia anna shara kita she zama bela bela che ci stiamo ascoltando è Damba Damba Calé, un brano di Compaoré Youssouf, un bel personaggio che proviene da Ouaga, dove è nato nel 1954 e lui è cresciuto ascoltando la musica congolese, quella guineiana e quella francese. Ha girato per l'Africa perché è finito ad Abidjan, poi è finito a Kumasi nel Ghana e ha registrato questo brano Damba Calé in Haoussa, che è una lingua che si parla nel nord della Nigeria, e questo brano poi è diventato subito insomma un highlight, e un brano in cui denunciava i comportamenti maschilisti di questa mentalità per cui le donne venivano e sono tuttora trattate male, in cui appunto lui trovava questa modalità di mescolare le influenze americane, un po' del funk con la sensibilità africana. 17:15, questa è Radio Africa e voi siete sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il contatto telefonico che è 06 49 17 50 che potete usare in qualsiasi momento. E allora andiamo ancora avanti con le nostre selezioni, ce ne ritorniamo in Ghana, dove incontriamo la Bunzu Sounds. Bunzu Sounds è una creazione di un produttore molto interessante che è Faisal Iwani, che nel 1974 ha prodotto questo gruppo, che ha poi dato che ha fatto questo brano Zinabu, un brano che ha colpito anche l'etichetta Luaka Bop, che è l'etichetta di David Byrne, che l'ha raccolta in questo World Psychedelic Classic numero 3. E allora loro sono i Bunzu Sound. Lui era Nicolas Gomez, chitarrista del più vecchio gruppo musicale del Benin, sì, perché dal Ghana ci siamo spostati al Benin, l'orchestra PCOB Band, che è nata nel 1953 e Nicolas Gomez si è aggiunto all'orchestra nel 1955. Il brano che ci siamo ascoltati era Mime Kipedi. Ebbene, per renderci conto di cosa significa e cosa significava fare musica in Africa a quei tempi, all'inizio naturalmente la PCOB Band aveva molte difficoltà, poi si sono recati ad Abomey, dove c'era un centro culturale che veniva perché lo Stato sponsorizzava queste iniziative, che aveva fatto un contest per vincere 500.000 CFA, centri franchi centro africani, fra varie orchestre, e loro parteciparono, vinsero e poterono continuare a suonare, ad acquistare gli strumenti e tutto quello che gli serviva per la registrazione. Lo Chest PCOB Band. Allora, 17:24, questa è Radio Africa e voi siete sintonizzati e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 è il contatto telefonico. Noi ce ne andiamo in Angola, dove incontriamo Ushbongus.

l'ex batterista di Fela Kuti in questo brano Woman to Man. 17:36 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sulla frequenza di Radio Onda Rossa, e abbiamo ricevuto un interessante intervento, telefonata da parte di un ascoltatore che appunto si chiedeva se c'è stato l'incontro fra la musica africana e la musica classica che potrebbe essere una musica classica africana o la musica classica europea. Beh, c'è qualche cosa che potrebbe essere interessante, che per esempio io suggerisco di ascoltare, ed è sicuramente Ray Lema, che è un pianista congolese che ha un enorme talento, che poi si è sperimentato con molti altri generi. Ecco, per esempio si trovano anche delle cose insieme alla Jazz Sinfonica Orchestra di San Paolo e anche con l'Orchestra Nazionale Svedese, ed è proprio lì che le sonorità della musica classica si incontrano con la musica africana, e dove ci sono questi artisti che si confrontano senza paura, diciamo così, con questa tradizione classica europea. Allora, 17:38, andiamo ancora avanti con le nostre selezioni, rimaniamo nell'ambito dell'Afrobeat. Lui è Orlando Julius, dal suo ultimo album Jayede Afro con gli Heliocentrics, questo gruppo inglese che insomma spesso si è mescolato con la musica africana, e quindi ci ascoltiamo Orlando Julius. Orlando Julius con gli Heliocentrics dal suo Jayede Afro, il brano Laffy Negbrook. 17:43 all'ascolto di Radio Africa dai microfoni di Radio Onda Rossa. Rimaniamo ancora sul genere Afrobeat. Lei è Sia Tolno dal suo album African Woman, il brano è Rebel Leaders. Sia tornò in questo brano Rebel Leader, 17:47, Radio Africa, 87.9 la modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, 06:49:17:50 il contatto telefonico. Vediamo un po' qualche notizia a proposito, insomma, degli eventi africani. Abbiamo seguito da vicino queste ultime settimane la situazione in Burkina Faso. C'è questo governo di transizione, un governo di transizione che lascia un po' perplessi rispetto agli scopi reali, se appunto voglia ricostituire o meno quell'amalgama di poteri che era quello di Compaoré e la sua gang, anche se questi sono fuggiti. Ci sono state alcune operazioni anche di facciata, come da parte del presidente Kafando, come per esempio l'idea di ricominciare all'indagine per quanto riguarda l'assassinio di Thomas Sankara. C'è un riflesso economico su questi avvenimenti del Burkina, perché non solamente l'Italia ma anche il Burkina Faso è stato declassato dall'agenzia di rating, la famigerata Standard & Poor's, a B-. E l'agenzia ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita stimate per il prodotto interno lordo del Burkina Faso, che fino adesso ha proseguito al 5% annuo, ma che scenderà probabilmente al 4,5% secondo loro. E poi naturalmente Standard & Poor's mette l'accento sul fatto che il Burkina Faso è stato teatro di manifestazioni di massa che hanno appunto cacciato il presidente Blaise Compaoré, e quindi lo mette in relazione con il rischio di una riduzione dei flussi di risorse che provengono dai paesi donatori. E naturalmente questa l'economia del Burkina Faso è un'economia sostanzialmente debole, ma che si fonda per gran parte sui flussi dei paesi donatori. E poi c'erano dei progetti di esplorazione delle miniere che per il momento sono stati sospesi in considerazione della situazione politica. Si parla anche in Burkina Faso della possibilità, come dire, del perdono rispetto a Compaoré e i personaggi a lui legati, e nella carta della transizione, insomma, c'è anche questo passaggio, anche se appunto molti esponenti della società civile a ragione ritengono un po' prematura, insomma, questo discorso, perché ci sta appunto questo passaggio, questa transizione estremamente delicata. E a proposito appunto del Burkina Faso, c'è una posizione ufficiale del Coordinamento Nazionale della Gioventù Sankarista che se da una parte si inchina rispettosamente davanti alla memoria dei martiri della democrazia, dall'altra si oppone a questo tentativo di ristabilire, diciamo così, di riaprire le ferite, e quindi fa una richiesta esplicita al presidente affinché venga abrogata la legge che consentirebbe di fatto l'amnistia nei confronti degli ex capi di Stato, e quindi l'amnistia viene sostanzialmente prevista anche per Blaise Compaoré, e naturalmente questo potrebbe essere un tentativo di ripristinare certe situazioni che il popolo burkinabè, insomma, ha rifiutato. Quindi c'è stata anche una posizione esplicita del coordinamento nazionale della gioventù sankarista. Ta me sona fujile ngba lomode lagba edide eje kajo oriti ilu ti se. Say you can't stop the rhythm of the drum, the pounding off it done. When the battle them are serving the food for fun, wrong. Go tell your flame lover mates a fool. Not too long ago we were rocking shows, keeping the steady flow, sending with vibe the blow. Yo yo, feel the bass line in the air, hit the atmosphere like the burning spear. We gonna make sure our message rings loud and clear. I need a signal from my people way back there to all my hustling sufferers far or near. Ancora qualche notizia. Intanto in Togo c'è molta tensione per il tentativo del presidente Gnassi Bé di riproporsi nuovamente alle elezioni presidenziali. Ci sono state delle manifestazioni nelle settimane scorse con scontri di piazza. La gioventù togolese, insomma, rifiuta questo processo, e per il momento queste manifestazioni sono state represse, ma non c'è ancora, diciamo così, un processo analogo a quello che può essere successo in Burkina Faso. Mentre invece, a proposito delle condizioni economiche dell'Africa, c'è una notizia appunto che sorprende, perché c'è stato da parte dell'Etiopia il lancio nel mercato internazionale di un bond, di un'obbligazione, il primo euro bond della storia del paese, che durerà 10 anni, che è stato emesso con un tasso di interesse del 6,25, che ha attirato addirittura 2,6 miliardi di dollari di richieste. E questo è una conferma dell'attrattività crescente dell'Africa sui mercati internazionali e soprattutto dell'Etiopia, che è un paese che ha una crescita molto alta, ma naturalmente è paradossale che questa crescita e soprattutto questo interesse, diciamo così, per i mercati internazionali venga nei confronti di un paese che è uno dei più poveri, dove è uno dei più poveri del mondo, dove c'è un prodotto interno lordo per abitante intorno ai 500 dollari. Evidentemente ci sono delle dinamiche che sono diciamo un po' difficili da interpretare, perché comunque la crescita annuale è dell'ordine del 10% in Etiopia, il prodotto interno lordo è cresciuto del 285% fra il 2005 e il 2013, ma naturalmente i processi distributivi non ci sono, la popolazione etiope rimane una popolazione povera, però i mercati internazionali hanno visto queste potenzialità di crescita e naturalmente la speculazione internazionale si è precipitata nel momento in cui l'Etiopia ha appunto emesso questo euro bond, questa obbligazione da 2,6 miliardi di dollari. It's me. For those that say I don't have a dance track. Move your body, make you shake that thing where you get. Let the music enter your head. Dance a barrage, omoge benjo whisko ba. Move your body, make you shake that thing where you get. Let the music enter your head. Dance a barrage, omoge benjo whisko ba. I make a come at you like this. Even if you truly hate the rugged man, you can't help but like this. I'm dropping this for the clubs, for the streets, for the parties, for people to shake their bodies. I'm in the mood to take spins, hit skins, place bets on my life, cause I know I'll win. Dance not the main thing, bang all the Thailand, from any city to any island. I am keeping it real like a slap to your face, like a sour taste in your mouth. Love to make the girl shout, make my niggas get down and straight hail me, cause I come through creamy like Bailey's. Ladies, let your man feel the texture of your gyrating hips on a dance floor. Get crazy when you hear this instrumental, and most definitely my voice is fundamental. Now the essential ingredient, where they make my people never want to see the end. I blend with the trend, stay forever like culture. You better make a move, cause I didn't watch you like vulture. Move your body, make you shake that thing where you get. Let the music enter your head. Dance a barrage, omoge benjo whisko ba. Move your body, make you shake that thing where you get. Let the music enter your head. Dance a barrage, omoge benjo whisko ba. Now only God knows those who go eventually make them. See the money rake them, no use gra take them. Which is some get to do, now shut up. Cause if we bomb for them body, them still no feel blow up. I don't teach them lessons, I happy say them listen. Now time to feel free like person we just come from prison. Girls bend back, bend legs, twist waist. While bubbles just they look seriously amazed. I just did look for a girl with feet dance. Make me fall in love at a dance floor with no romance. This not party trap, rugged man style. Just grab a partner and get walk wild. I don't tire for chicks with the front. They pretend like say they no, say them get way till all my bubbles won. Face with my feet lick, legs to life for. Lips where you want kiss and a body to die for. Me no day like waste time. Me go just speak my mind. Me go straight and tell you how it is. E allora ci sono fatte le 18:01 per questo sabato 6 di dicembre. Radio Africa finisce qua, ma rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché fino alle 19.30 c'è Sol Peanuts e il suo jazz. It's time to bounce where my chicks at. You know it's time to dance. What you say, girl? Feel it. Now what you say, girl? Feel it. And your boys share more. It's time to bounce where my chicks at. You know it's time to dance. What you say, huh? Feel it. Now what you say, girl? Come on, get bend your whisker. Your whisker. that thing. Show me how you shake 'em. No mind those boys, but no break 'em. No blame them, now cause of how you dey move. How you dey shake your body when you're feeling the groove. This now, rugged man, coming through with this new dance track. To rock your body for you and you. You and your girlfriends, me and my man friends. We cash to spend, so girl, no step back. Step forward, let me take you on a journey. Strictly my style, I get you screaming, you be calling me honey. Cause I know how to do my thing. No be just the world, they start with a big bang. Move your body, make you shake that thing where you get. Let the music enter your head. Dance a barrage, omoge benjo waist go back. Move your body, make you shake that thing where you get. Let the music enter your head. Dance a barrage, omoge benjo waist go back. Move your body, make get head. Another OJB hit. Move your body, make rugged man on get, the dance get. Floor. That's not how I do my thing. Know what I'm saying? My man Joe Kenny, you drop this beat, man. B-Sway, Lexi too. Gang Show, 6-0. I bounce, Simeone, my man D, man B, Jafar.